Esatto, sì. Allora possiamo suonare, però mi raccomando, tu non pare, no, esternamente non deve esserci niente se non la tua chitarra, capito cosa voglio dire? Eh sì, no, non farò nessun rumore. No, non mi sono spiegato. Io adesso sento anche per esempio la mia voce. Non lo so perché, come devo fare? Come devo fare, maestro? Ma tu che ti metti le cuffie, la musica la senti nelle cuffie? Eh certo. No, io sento proprio anche la mia voce adesso, capito? Non lo so, perché prende anche l'esterno. L'audio esterno lo devi disabilitare, tu l'audio lo devi sentire solo nella cuffia, se no mi ritorna quello che suona. E come faccio, come faccio a disabilitarlo? Mettendo la cuffia dovrebbe disabilitare esterno e abilitarsi solo... Scusami, non puoi chiudere le casse, cioè delle casse. No, non ce l'ho le casse, cioè, c'ho solo l'audio del computer. Quello lo devi disabilitare, l'audio lo devi sentire solo in cuffia. Adesso senti qualcosa? Io per esempio adesso non sento nulla perché ho tolto l'audio, capito? Allora io adesso se metto le cuffie non sento nulla perché ho tolto l'audio al computer. No, tu non devi togliere l'audio, cioè tu l'audio non deve uscire dal computer ma deve uscire dalle cuffie, questo devi fare. Non lo so come. Io ho messo l'attacco alle cuffie. Io ho messo le cuffie lì dove vanno attaccate. Non lo so perché. Aspetta, provo con un altro paio di cuffie se vuoi. Queste due cuffie hanno tre taglietti o due taglietti. Al jet. Tre taglietti. Al jet. Vabbè? Sì. Tre quelle con due. Aspetta. No, ma perché... Prova a mettere quelle con due. Che forza te ne fa. Questa ne ha due. No, questa ne ha sempre tre. Non credo che sia questa. Va, vediamo un po'. Fai in modo, Francesco, che il tuo computer cerca di segui? Sì. Il tuo computer senta solo la tua chitarra, capito? E non anche quello che viene suonato, capito? Ma adesso mi senti? Adesso che cosa senti? Io sento la mia voce. Io la mia voce non la devo sentire solo la tua voce, la tua chitarra, capito? Purtroppo non ho... Devo comprarmi un paio di cuffie perché mi sono rotte quelle altre. Peccato, guarda, è importante molto. Purtroppo è una cosa che devi risolverla su là, devi risolverla su di là. Come posso fare? Oppure, è cosa? Certo. Sì.